Radio 24 e Salone del Libro 2012 presentano Piccolo Mondo Antico. Primavera digitale è il tema del Salone del Libro 2012, perché la tecnologia cambia anche la cultura. Con i libri digitali, la condivisione in rete delle idee, le nuove forme di sapere e conoscenza. Radio 24 si avvicina al Salone con Piccolo Mondo Antico, un appuntamento quotidiano per riscoprire come la tecnologia ha cambiato i nostri comportamenti e la nostra vita. Dove andiamo? Piazza del Duomo, 1956. Totò e Peppino sono appena arrivati alla ricerca del nipote, scappato da Napoli per inseguire la bella Marisa che lavora in un teatro di Milano, di cui conoscono solo l'indirizzo. Excuse me. Sega. Bitteschön. Noio. Sega. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio, vogliamo sapere? Per andare. Per andare. Dove dobbiamo andare? Andare. Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. Meno male che il navigatore satellitare nel 1956 non esisteva ancora, altrimenti avremmo perso uno degli sketch più divertenti del cinema italiano. Sì, perché anche in questa puntata di Piccolo Mondo Antico vogliamo raccontare un cambiamento avvenuto nei nostri comportamenti grazie allo sviluppo della tecnologia. Oggi parliamo di navigazione satellitare. Ma vi rendete conto dove siamo, ragazzi, noi? In mezzo al deserto, in bicicletta. Probabilmente persi. Non ci siamo persi. Sicuramente persi, cercando un posto che non sappiamo neanche che posto è. Sulle indicazioni di un dentista, tedesco, albino, drogato, omosessuale e del suo concubino che è un ergastolano. Il navigatore stradale si basa sul GPS, una tecnologia americana di geolocalizzazione che sfrutta una rete di satelliti per individuare un punto qualsiasi sulla faccia della Terra. Inizialmente questa tecnologia era utilizzata solo in ambito militare, ma dal 1991 il governo americano ha deciso di renderla pubblica. Sono nati così i primi sistemi di navigazione satellitare per auto, ulteriormente perfezionati nel 2000 con il miglioramento della localizzazione dell'oggetto. Ognuno può conoscere la propria posizione con un'approssimazione di 10-20 metri. È il boom dei navigatori, che divenuti status symbol, si diffondono immediatamente anche in Italia. Gli atlanti stradali volano dai finestrini e le nuove automobili offrono un sistema di navigazione integrato. Sulle auto più piccole compare invece una ventosa sul parabrezza. Il navigatore è diventato il compagno virtuale irrinunciabile di ogni automobilista, anche sui percorsi più brevi e conosciuti. Tipo quello che dall'81 usa la macchina soltanto la domenica per andare a pranzo dai suoceri e ha preso il navigatore, che verrebbe da chiedergli: scusa, ma per cosa l'hai preso? Che stai andando dai suoceri che stanno a 2 chilometri, che il GPS non fa neanche in tempo a prendere il segnale che sei già arrivato. Alla funzione di geolocalizzazione si associano sempre più servizi accessori. Informazioni in tempo reale sul traffico, suggerimenti per il rifornimento e indicazioni dei ristoranti più vicini, meteo. E il futuro promette ulteriori novità altrettanto rivoluzionarie. Dal 2014 entrerà in funzione una nuova tecnologia, questa volta europea, che affiancherà e forse sostituirà il GPS. Si chiama Galileo e garantirà una maggior copertura del segnale con una precisione fino a 4 metri di scarto. L'altra novità riguarda i navigatori nelle nostre auto. Non dovremo più guardare piccoli schermi LCD per sapere dove svoltare. Le mappe saranno proiettate sul parabrezza e si integreranno con la nostra visione della strada, riducendo le distrazioni di guida e migliorando la visione notturna. Piccolo Mondo Antico è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.